Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi vi farò vedere una cosa molto bella. Vi è mai capitato di essere a scuola e giocare un po' col telefono per non farvi scoprire dalla prof? Per esempio, se vi vede la prof che state giocando? Ecco la soluzione quando vi scopre e gli fate vedere il telefono. Per esempio, volete che si spegni, non si accende più, però in verità è acceso. Grazie a questo codice, quando vi vedrà per esempio la prof, dovete cliccare la freccina due volte. Il telefono si spegne. Anche se clicco il bottone home, come sentite, anche il tasto spegnimento. Questo è un tutorial che un ragazzino ha messo su YouTube per spiegare ai suoi amici come ingannare la professoressa, simulare che il proprio telefono sia spento quando lei chiede fammelo vedere, quando in realtà è in uso e perfettamente atto a fare qualsiasi tipo di azione. Non ci prendiamo in giro, è totalmente inutile che una rappresentante dell'antico mondo concreto provi a ingannare o controllare un nativo digitale nell'uso di quella che è una parte ormai essenziale della sua personalità, è la vita che vive attraverso lo schermo del suo smartphone. Oggi è stato annunciato dalla stampa di Torino quello che probabilmente nessuno avrà considerato come un evento epocale, perché oggi siamo presi dalle vicende post-elettorali, ma proprio perché oggi gran parte delle scuole italiane, perlomeno nelle grandi città dove si è votato per il sindaco, le scuole sono chiuse, i ragazzi sono a casa, voglio annunciare e commentare quella che secondo me è la notizia del giorno. Dal 2017 sarà tolto il divieto, che era in vigore da 10 anni, di usare i telefonini in classe. Quindi i ragazzi potranno liberamente avere il loro smartphone acceso, in mano, non più sotto il banco, non più con le app che ne simulano comunque l'attività. Questo perché? Perché è gioco forza, lo Stato sta investendo miliardi per digitalizzare le scuole, per fornirle di una rete wifi, per dare degli strumenti digitali, e poi i ragazzi non tenere spenta quella parte della loro esperienza, della loro personalità, della loro capacità di relazionarsi, che è il loro smartphone. Sorge qui un grande problema: chi gestisce i ragazzi con i telefoni accesi? Chi ha gli strumenti per entrare con loro in un rapporto virtuoso, di che non ci sia più bisogno dell'escamotage, del sotterfugio, ma i ragazzi sentano stimolati a usare totalmente la loro capacità di percepire e interagire con il mondo per un percorso didattico? Qui è il vero problema, ne parleremo tra poco. 800240024, soprattutto i ragazzi che ci ascoltano, che ne pensate? Nel prossimo anno scolastico potrete usare tranquillamente il vostro smartphone senza nessun sotterfugio, senza nasconderlo a nessuno. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, vedo già serpeggiare il panico soltanto perché un minuto fa ho annunciato quella che potrebbe essere la riforma più significativa nella didattica scolastica italiana. Il prossimo anno scolastico gli studenti potranno liberamente usare il loro smartphone in classe, ma mi pare ovvio, lo Stato sta investendo grosse cifre per digitalizzare le classi. Cosa si digitalizza fare una classe se poi lo studente non può usare quella parte significativa e importante della sua personalità, che è la sua esperienza digitale, che viene naturalmente applicata ogni istante della sua vita cosciente con il suo smartphone? Togliamo anche i professori, lasciamo che siano educati dallo smartphone. Allora, che scuola di merda che si profila all'orizzonte! Viva la buona scuola, Andrea da Modena, terrorizzato. In Italia c'è il terrore incomprensibile e irrazionale verso la accettazione del fatto che oggi l'essere umano abbia una sua protesi espressiva, che è il proprio telefono cellulare, che non è più un telefono, ma è qualcosa che racchiude la nostra esperienza, la nostra capacità di relazionarci con il resto del mondo. Questo vale ancora di più per i ragazzi nelle scuole, quindi impedirgli come tenere spenta una parte della loro mente non serve assolutamente a nulla, bisogna capire e comprendere. A monte c'è da essere rispetto degli studenti per il lavoro del professore. Con questo concetto in testa, lo smartphone diviene una risorsa. Ecco, questa è una visione corretta. Davide Farone, buongiorno. Poi. Davide Farone, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Miur questa mattina sulla stampa risponde alla collega Flavia Amabile e annuncia quella che secondo me sarà veramente una nota di interessante discussione su quello che sarà il prossimo anno scolastico. La scuola ci ripensa, lo smartphone tornerà tra i banchi. Erano 10 anni che c'era questa sorta di proibizionismo in classe, intanto i ragazzi continuano a sviluppare la loro esperienza e la loro relazione nel bene o nel male, non voglio fare il buonista a tutti i costi, e con il loro smartphone, e i professori li sorvegliavano perché lo tenessero spento. Cosa vi sta cambiando nella valutazione dell'uso dello smartphone con lo studente, Davide Faraone? Ma si tratta soltanto di prendere atto della realtà e trasformare uno strumento che è concepito come uno strumento da proibire nell'uso come strumento di didattica, invece in uno strumento utile alla scuola. Noi molto presto avremo quasi tutte le scuole d'Italia cablate, e se saranno cablate bisognerà dotare gli studenti di strumenti che magari già hanno per poter sviluppare una didattica che deve essere assolutamente orizzontale nell'utilizzo del digitale. Il tema non è prevedere l'ora di informatica in cui si formano i ragazzi, ma il tema è prevedere un uso del digitale come strumento di didattica abbastanza normale, come accade poi nella vita di ogni giorno dei ragazzi e dei ragazzi. Fare i luddisti su questo aspetto qui è assolutamente inconcepibile, fuori dal tempo. Invece è quindi il divieto assoluto. Ad oggi è previsto il divieto assoluto dell'utilizzo degli smartphone in classe. Ora, l'utilizzo dello smartphone non vuol dire che si sta a lezione, si parla al telefono, si mandano messaggi o altro. L'utilizzo dello smartphone per studiare come strumento di comunicazione, pensate anche su tutto il tema dell'inclusione sulla disabilità, che strumento straordinario può essere questo qui. Io credo che sia un fatto normale, un fatto assolutamente di civiltà e di funzionalità della didattica nel nostro paese. Ecco, secondo lei, Faraone, quale potrebbe essere il primo grande ostacolo? Perché i ragazzi sono già alfabetizzati nell'uso concreto del loro smartphone, devono magari essere un pochino più addestrati nell'uso etico del loro smartphone, nella sorta di educazione civica a usarlo, per capire che anche la loro relazione aumentata, la loro realtà aumentata, che ormai fa parte della loro vita in maniera integrale, possa essere regolata su antiche regole che hanno sempre regolato la civilizzazione tra esseri umani. Ecco, il problema insegnanti, come lo gestirete? Perché gli insegnanti si troveranno ancora di fronte allo sconcerto di avere ancora di più una classe armata di strumenti molte volte incomprensibili per loro, difficilmente gestibili. Ma io credo, ho fatto una manifestazione organizzata da Impara Digitale la scorsa settimana a Bergamo, dove c'erano circa 3.000 insegnanti venuti da tutta Italia, in cui invece gli argomenti che sto ponendo e che stiamo ponendo come governo erano assolutamente presenti, e c'era tanta voglia di utilizzo di questi strumenti in classe come facilitatori della propria attività. Gli insegnanti, anche lì la preoccupazione è che ragazze e ragazzi sono più avanti nell'uso di quegli strumenti tecnologici è sicuramente oggettivo. I ragazzi che sono nati con quegli strumenti sono più rapidi, ma l'uso cosciente di quegli strumenti è un compito, insegnare l'uso cosciente di quegli strumenti è un compito degli insegnanti. Questa generazione vive il fenomeno del cyberbullismo e non soltanto del bullismo. Riuscire a costruire la possibilità e dare gli strumenti ai ragazzi per utilizzare bene i social e quegli strumenti lì è un compito innanzitutto delle famiglie, degli insegnanti, e complessivamente devono avere un piano d'azione. Non è rompendo la tecnologia o bloccando l'innovazione che si accresce la cultura in questo paese. Bisogna essere, ripeto, non luddisti e convertire questi strumenti all'uso utile che può essere fatto da tutta a scuola. Quando avverrà il cambiamento in maniera concreta, reale? Ci sarà un'ora X in cui tutti potranno accendere il telefono? Sta già accadendo, nel senso che al di là delle resistenze che qualcuno può manifestare, già oggi nelle classi molti insegnanti fanno utilizzare iPhone e iPad alle ragazze e ragazzi, e fanno utilizzare questi strumenti, ripeto, non come didattica da contenere dentro un'ora di informatica da insegnare, ma come strumento complessivo di formazione. Per cui al di là delle resistenze che sarebbero resistenze che mi darebbero un po' come a fermare il vento con le mani, più che a sfruttare le opportunità che possono essere date. Ecco, è stato, io credo che sia il cambiamento in atto. È stato pubblicato proprio in questi giorni un libro molto interessante, che è la traduzione di un libro fatto da un'Accademia delle Scienze in Francia, proprio dedicato a questo tema, in maniera molto ampia, molto esaustiva. Il titolo del volume in Italia è Il bambino e gli schermi, edito da Guerini, sono vari autori, ma è stata curata, diciamo, la pubblicazione italiana, tra l'altro, da Paolo Ferri, che è un docente della Bicocca di Milano, e da Stefano Moriggi, che è un filosofo della scienza. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Allora, alla luce degli studi che state facendo sulla nuova scuola, sulla scuola digitalizzata, sulla realtà e la soggettività aumentata dei ragazzi attraverso lo smartphone, come vede questo tipo di iniziativa della scuola italiana? Sorprendente, devo dire. Ma lo vedo tendenzialmente bene. Partirei con un numero. Da una ricerca recente, i professori che consentono ai ragazzi di utilizzare il telefonino nell'ambito didattico sono in Italia sono il 2%, quindi questo attualmente è il livello. Non stiamo parlando in generale di strumenti digitali, ma del telefonino in particolare, che è ancora percepito nell'ambito degli strumenti digitali come il più trasgressivo. La prima considerazione che mi verrebbe da fare è che i ragazzi sono effettivamente per lo più portati a concettualizzare il telefonino come uno strumento di evasione, per la semplice ragione che a loro è consentito usarlo semplicemente ed esclusivamente in contesti di evasione. Nessuno, quindi in quanto è proibito viene usato in maniera trasgressiva. Se fosse permesso diventerebbe uno strumento quotidiano, come mettersi le scarpe la mattina o mettersi gli occhiali chi non vede. Davide Farone, d'accordo su quello che dice Stefano Moriggi? Assolutamente sì, sono convintissimo di questa impostazione. Mi colpisce il fatto che siano percentuali ancora così basse, ma sono legate anche al fatto che ad oggi è stato fuori legge l'utilizzo dell'iPhone, dello smartphone in classe. Io credo che se noi... Quindi lo vivevano clandestinamente anche i professori, non dicono che lo fanno usare o che temono che sia qualcosa contro la legge. Ecco. Ma di fatto tante cose, l'alternanza scuola-lavoro, anche quando non era disciplinata, di fatto veniva praticata a scuola. Tante attività che si sono fatte in questi anni a scuola, quasi fuori legge, tra virgolette, noi le stiamo oggi istituzionalizzando per renderle utili. La stessa cosa dobbiamo fare sull'uso degli smartphone. Dobbiamo istituzionalizzare questo utilizzo e togliere questo proibizionismo. Al tempo stesso, naturalmente, lì è il compito poi degli insegnanti e dirigenti scolastici di saper far utilizzare questo strumento nella giusta direzione. Ne ho segnalato alcune caratteristiche positive degli interventi che ho fatto poco fa. Credo che abbiamo una classe di insegnanti e dirigenti scolastici all'altezza per far sì che questo strumento venga utilizzato al meglio. È chiaro che poi nella rete, nel social network, nell'app di aggregazione, quella classe, l'insegnante deve essere presente con gli strumenti che hanno anche gli altri ragazzi, poter interloquire e poter affermare anche la sua esistenza. Grazie Davide Farone, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della Borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Sto facendo il video. Ilaria Tonetti. Oh, ma ce ne sarà una, non sei. Thank you. Ciao ciao. 800 24 00 24. Naturalmente esiste un'infinita letteratura in rete che potrebbe smentire il fatto che l'uso efficiente di uno smartphone in classe possa aiutare la didattica, ma io sono perfettamente convinto, nella conoscenza e nell'esperienza che ho comunque dell'evoluzione umana attraverso strumenti digitali, che prima o poi si arriverà a un'equazione soddisfacente per tutti, per cui i ragazzi potranno esprimere loro stessi anche nell'ambito scolastico con il loro telefono o con la loro appendice emotiva, che magari cambierà, varierà. Non lo chiameremo più telefono, ma quando è stata fatta la proibizione 10 anni fa nemmeno esisteva lo smartphone così diffuso come lo pensiamo oggi. 10 anni fa nemmeno c'era l'uso dei social network come c'è oggi, non esisteva WhatsApp, nemmeno la gente sapeva cosa fosse, nemmeno Telegram, nemmeno tutte le possibilità infinite che oggi sono di relazionarsi attraverso delle applicazioni e degli strumenti digitali. Leggo di molti insegnanti che considerano questa come un'apertura all'anarchia totale, l'equivalente di dire i ragazzi possono ubriacare in classe, i ragazzi possono drogare in classe. Però non tutti sono di questo avviso. Veronica, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma sì, io in effetti ho appreso da un ospite suo stamattina che devo essere fra il 2% di docenti che da tempo effettivamente ha integrato lo smartphone nella didattica. Non lo uso chiaramente tutti i santi giorni e tutte le sante ore, però per esempio sono già 2 annetti buoni che chiedo ai ragazzi. Spenga la radio, Veronica, per gentilezza, sento un po' di. È spenta. Chiedo ai ragazzi se vogliono portare lo smartphone per leggerci i Promessi Sposi utilizzando l'iPad. In maniera del tutto legale è molto comodo, perché siamo usciti dall'incubo del ma ho lasciato il libro, doveva portarlo quell'altro. È gratuito, quindi non pesa nemmeno sulle tasche dei genitori e funziona bene. Segniamo adesso al di là di leggerlo come un sì. Semplice Kindle o lettore di testi, è vero il fatto, ricordo gli anni dei miei figli in età scolare, gli zaini da Atlante sulle spalle, certo. Dici devo portare per forza tutto, sì. Già sarebbe un grosso problema, e meno dire che perlomeno gran parte del testo viene digitalizzato, tanto l'uso che si fa il testo in classe può permettere comunque di avere un capitolo, 2 capitoli, 3 capitoli o anche tutto il testo da poter consultare. Ma c'è secondo me una fase in più, che è la gestione anche di questa parte della personalità del ragazzo, e quella che esprime attraverso il suo smartphone, che è come se fosse un buco nero per l'insegnante tradizionale. Non si sa cosa accade, non sapendolo e non potendo in nessuna maniera partecipare anche a quel tipo di vita, si vieta o si sancisce che quello è il luogo della trasgressione, il luogo del delitto, è il luogo dell'uscita dalla regola. Dobbiamo essere probabilmente più coraggiosi noi, dobbiamo veramente entrare in questo caos in cui loro lavorano, fanno, scrivono, ci sono degli scrittori che sono emersi da siti di scrittura cooperativa che funzionano. Posso chiedere a Veronica a quale classe le appartiene più o meno, di quale generazione appartiene? Ah beh, io sono classe 67, quindi ho 49 anni. Ecco, però lei si ricorda che ancora ai suoi tempi, i miei tempi sono precedenti, nessuno scriveva altro, la tesi laurea è la prima cosa che uno scrivesse in maniera compiuta. È vero, mentre adesso funziona molto oggi bene. Oggi scrivono i ragazzi. Sì, se gli si chiede, se gli si dà il là, scrivono, è davvero una cosa molto bella, sono molto creativi, vanno seguiti. Io da un paio d'annetti che mi sono proprio così piano piano progressivamente immersa in questa direzione, ma devo dire funziona bene, sono più felici. Oddio, magari sono io che ho beccato, come si suol dire, un paio di annate e di classi fortunate, ma non credo che sia veramente una connessione importante quella attraverso la scrittura e la lettura. nella loro evoluzione personale. La tronco, Veronica, perché ho altre persone che, a cui voglio dare la parola, stanno scrivendo moltissimo i suoi colleghi. Una delle preoccupazioni espressa da un ascoltatore: quindi i ragazzi potranno sputtanare i professori pubblicando video di strafalcioni e comportamenti discutibili? Beh, se questi ci sono, saremo sullo stesso livello di possibilità di rendere pubbliche le nostre mancanze. Luciano, buongiorno. Buongiorno. La chiamo da Rimini, sono un docente e anche un ingegnere informatico, quindi scrivo programmi per i tablet e gli smartphone. Quindi nessuno meglio di lei sarebbe il docente ideale da questo punto di vista. Sì, infatti, però purtroppo non sono a favore. Non è d'accordo, sentiamo bene perché. Perché nel mondo di oggi, specialmente dell'informatica, la necessità è quella di focalizzarsi in questo mare magnum di informazioni. Se noi non li abituiamo a focalizzarsi, e anzi li sottoponiamo al fuoco di informazioni dove loro non sanno distaccarsi, aggiungiamo un grado di libertà, un elemento di distrazione incredibile, perché lei si immagini di dover fare delle prove in classe con i cellulari accesi, cioè diventerebbe un caos incredibile. Io infatti prima ho sentito con meraviglia Faraone parlare e ho detto sogno, oppure non dovrebbe essere neanche una cosa da discutere. Cioè, Però lei deve pensare, lei come informatico però vede solo un aspetto di questi strumenti, vede l'aspetto della creazione, della costruzione, della rettifica, dello sviluppo del codice che li fa funzionare, ma in realtà sono strumenti di umanizzazione, cioè di scambio umano, qualcosa di diverso, guardi, che attraverso cui passa però una parte dell'esperienza del ragazzo che al docente sfugge. Mi permetto di dissentire, sì. Noi come programmatori dobbiamo conoscere anche l'elemento psicologico che spinge a comprare le nostre applicazioni, cioè l'utilizzo. Noi lo conosciamo benissimo, la psicologia dell'utente, perché dobbiamo fare delle applicazioni che li attivano. Ma guardi, resti in ascolto, la faccio parlare con Stefano Morigi, che a cui ho dato la parola prima, adesso avrà modo di contrapporre o di assecondare la sua tesi, non so qual è la sua posizione. Ricordo, Morigi è un filosofo della scienza, ha curato assieme a Paolo Ferri il volume Il Bambino e gli schermi, autori vari, edizioni Guerini e Associati, che è un libro tratto da una serie di interventi messi assieme dall'Accademia delle Scienze di Parigi, quindi è un testo importante. All'amico ascoltatore programmatore informatico, cosa hai da dire, Stefano? Vorrei esporre la mia di preoccupazione, visto che finora ho sentito quelle degli altri. La mia preoccupazione è l'assenza di un'educazione dei genitori alle dinamiche del digitale e di un'appropriata formazione dei docenti a modelli di didattica che siano in grado di integrare in maniera costruttiva e significativa questi strumenti al netto di dati obiettivi formativi. È ovvio che se un docente pensa di poter gestire con le categorie della didattica tradizionale un ambiente aumentato dalle tecnologie, gli sfugge di mano. E con perché avrà sempre due piani, avrà il piano del libro o del quaderno e il piano del telefonino, che difficilmente coincidono. Non solo non coincidono, ma non domina minimamente quella cultura, diciamo così, necessaria per gestire in maniera razionale e costruttiva una classe in un contesto come questo. L'ascoltatore diceva che non bisogna focalizzare l'attenzione e non distrarli con margini di libertà ulteriore. Il problema è esattamente il contrario. Il problema è quello che i ragazzi vanno educati a orientarsi in un orizzonte più vasto che sia quello del libro, sia dentro la scuola sia fuori la scuola. Il destino sarà quello, ci piaccia o non ci piaccia, di vivere in un orizzonte aumentato di realtà dalle tecnologie, e di conseguenza saremo travolti da informazioni, alcune attendibili, altre meno. Quello che dobbiamo insegnare ai ragazzi non sono più tanto e solo nozioni, ma sono abilità analitiche e capacità critiche per orientarsi in un mondo che non è più quello di prima. Sono nuove le regole del traffico, ma se queste regole del traffico non le conoscono gli insegnanti, come ci si può aspettare, e tantomeno i genitori, che i ragazzi per conto loro apprendono un uso significativo di questi mezzi? Questa certo, è la mia preoccupazione. È, è tutto un sistema che va sovrascritto, ti rendi conto? Non è proprio così facilissimo. Però va completamente sovrascritto, perché bisogna pensare che il limite non è più l'ultima pagina di un testo. Il limite non è un testo pensato, studiato, immaginato, scelto e acquistato. Il limite è un mondo senza limiti, indefinito, in cui però bisogna dare delle regole di navigazione, delle capacità di orientarsi. È una cosa complicatissima. Matteo, buongiorno. Matteo. Buongiorno. Sono un giovane docente, insegno in un liceo musicale, insegno strumento. La mia situazione è un po' particolare perché... Già è più facile che insegnare trigonometria. Ma è più facile, no, perché c'è il problema delle mole di lavoro che hanno per studiare insomma, professionalmente uno strumento musicale. Beh, però già ci vuole a monte una motivazione forte che in parte l'aiuterà, sì, penso, no? Sì, che io... Nelle nuove generazioni vedo molto latente, quando gli si chiede lo sforzo di mettere al freiriano, di mettersi anche solo sullo strumento, che dovrebbe essere una cosa piacevole, e compiere quella che è l'attività ginnica, noto che insomma, fanno molta fatica. Comunque quello per cui intervenivo è che sono un po' preoccupato dal punto di vista delle regole stringenti della privacy e della sicurezza che ci sono nella scuola italiana, con la possibilità di avere magari in una classe 20-25 smartphone accesi con quello che registra, quello che si fa il selfie, con la chat sotterranea dove si scambiano battutine, già adesso non è... Quella già ci sarebbe comunque. No, questo primo aspetto in effetti è un aspetto da considerare, questo è vero, perché sono degli strumenti aperti che mettono in connessione un'infinità di realtà. La classe entrerebbe una classe aperta, questo è poco ma sicuro. Come noi la siamo... aperta penso che sia molto positivo. No, ma aperta verso il resto del mondo, nel senso, come la nostra privacy è un concetto che stiamo ridiscutendo, perché è molto, siamo noi stessi che abbiamo ampliato questo concetto mettendo ogni giorno una nostra foto, una nostra frase, una nostra geolocalizzazione. Anche il concetto di classe come area sacra, chiusa all'esterno, in parte si andrà sicuramente rivisto e ripensato. Ma questo ce lo dirà Morigi fra un istante, dopo che ci fermiamo un secondo. 800 24 0024. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando di un tema che sembra circoscritto soltanto al cadere di un proibizionismo, cioè di usare liberamente lo smartphone in classe, però i problemi che stanno emergendo sono complessi, con tutta la buona volontà dei docenti che ci hanno chiamato, che già hanno un margine, non dico di tolleranza, ma di comprensione, la necessità dei ragazzi di manifestarsi anche in questa dimensione mentre stanno in classe, però logicamente non sarà certo un passaggio facile. Aggiungiamo ancora una testimonianza, poi Stefano Morigi, che ci sta ascoltando, che ha curato insieme a Paolo Ferri il volume Il bambino e gli schermi, edizione Guerini Associati, che tratta proprio di questo problema della dimensione aumentata dei ragazzi attraverso il loro strumento individuale di interconnessione con la rete, quindi anche con gli altri esseri umani. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. No, io volevo portare la mia esperienza, sono un neoassunto, uno dei famosi della fase C, e mi trovo ad insegnare a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, in un istituto alberghiero, disegno e storia dell'arte, e diciamo pure che è una materia un po' ostica in un contesto dove diciamo, questo tipo di disciplina non era neanche prevista. Tuttavia io, proprio per trovare un punto di collegamento con i ragazzi che avevo delle varie classi che mi sono state assegnate, ho utilizzato proprio lo smartphone come elemento didattico. Tant'è vero che non solo con i ragazzi, ma anche con i ragazzi diciamo della classe, ma anche con quelli che avevano bisogni educativi speciali, quindi con i ragazzi del sostegno, abbiamo iniziato un percorso di lettura del territorio attraverso la fotografia da smartphone. Questo ha fatto sì che molti di loro, che facevano fatica anche a seguire per 10 minuti una lezione, hanno iniziato a seguire con attenzione questo tipo di approccio, tant'è vero che molti di loro sono diventati veramente bravi a fotografare, quindi c'è stata una sorta di approccio all'educazione all'immagine, alla conoscenza del loro territorio, che è bellissimo, che è quello della Capitanata, e sulla scorta di questa esperienza poi abbiamo iniziato a fare dei parallelismi con il paesaggio e la storia dell'arte. Non solo, ma ci siamo innestati poi, sempre attraverso l'uso dello smartphone e della griglia cartesiana per la fotografia, abbiamo iniziato a interfacciarci con la professoressa di matematica, che ha potuto spiegare lo spazio cartesiano attraverso le immagini fatte con questo strumento che è lo smartphone. Quindi io sono un entusiasta di questa cosa, lo ero già precedentemente perché io sono un amante della tecnologia, ma vedere i risultati ottenuti, perché poi dopo abbiamo fatto un cofanetto con le migliori immagini e adesso questo cofanetto sarà in bella mostra, incorniciato, sono 25 immagini che abbiamo selezionato, dove i ragazzi fotografano quasi come provetti fotografi, ma hanno anche approfondito informazioni sulla storia dell'arte, sull'uso sul paesaggio, sulla lettura del paesaggio, quindi una sorta di mentalità critica. Poi mi spieghi, Stefano, lei sta portando un esempio proprio da manuale, come si potrebbe iniziare invece che nascondersi, spaventarsi, fuggire, iniziare a lavorare, tirarsi sulle maniche e dire vediamo cosa possiamo fare. Certo. Come è cambiato il cosiddetto uso dello smartphone inteso per una convenzione ormai accettata fra studente e docente, come strumento di trasgressione? Cioè tutti gli usi impropri dello smartphone sono calati durante la lezione, visto che lei... Certo che sono calati, perché i ragazzi vi chiedevano la tecnica. Ma professore, come faccio a fotografare questo oggetto piuttosto che quest'altro? Ma come faccio a mettere in evidenza questa cosa piuttosto che quest'altra? Quale applicazioni utilizzare per l'editing? Altra cosa interessantissima, no? Dove i ragazzi imparano a dosare... Però lo vede, Stefano, funziona, perché i ragazzi le riconoscono comunque un'autorevolezza. L'autorevolezza è una persona che conosce meglio di loro... Lo smartphone oggi è uno strumento istintivo, non occorre essere informati, lo prendi, lo accendi e lo sai usare. Però non sarebbe diversamente un però lo sai usare molto limitatamente. Se lei gli spiega l'uso del fotoritocco, l'uso della geolocalizzazione, l'uso di certe applicazioni, l'uso profondo della possibilità comunque di crearsi un archivio personale, insegna loro qualcosa. Certo. Stefano Morigi, a questo insegnante cosa devi dire? A questo insegnante anzitutto faccio i complimenti, perché rappresenta il caso concreto di quello che dicevo prima. Il miglior modo... Vabbè, la terra di Padre Pio, è chiaro che avvengono i miracoli. Beh, d'accordo, ma io giro alle scuole di tutta Italia e conosco altre storie analoghe dove di miracoli se ne parla di meno. Il problema è che il miglior modo per gestire l'utilizzo di questi strumenti in aula con i ragazzi è mostrare ai ragazzi che questi strumenti possono avere un utilizzo diverso da quello che loro conoscono, che è solo quello dell'evasione, della distrazione e quant'altro. Però scusami Stefano, peraltro... io devo essere equo. Il prode Fabrizio Intonti, che è un fotografo, dice sì, con la fotografia sono capace anch'io, con il telefonino, a farli giocare. Falli giocare con la matematica, con la trigonometria, con il latino, con la grammatica, come si fa? E infatti succede tranquillamente. Il vero problema è che è impensabile poter utilizzare quegli strumenti se gli insegnanti, se alcuni insegnanti, si rifiutano di mettersi in discussione e di aprirsi a nuove pratiche didattiche che consentono l'uso sensato di questi strumenti. Conosco storie analoghe a quella che abbiamo sentito dal professore di arte, articolate in altre materie, dal greco al latino alla matematica, alla robotica per insegnare la logica, il pensiero nazionale, la razionale. I casi non mancano, e non mancano dove c'è la volontà da parte dei docenti di mettersi in discussione rispetto a un mondo che sta cambiando. Forse manca però manca una letteratura scolastica che insegni come fare questo uso, probabilmente, perché vai per tentativi empirici, per buona volontà o per esperienze. No, adesso ci sono e ci saranno sempre di più percorsi di formazione, di aggiornamento su questi temi, che consentiranno ai docenti in qualche modo di imparare loro stessi a orientarsi in questo nuovo mondo, al netto del fatto che c'è comunque ancora, bisogna essere onesti, una percentuale del corpo docente che, come dire, si crogiola nel privilegio di chiudersi alle nuove tecnologie. E io, guarda, posso prevedere, senza essere profeta necessariamente, che questo sarà uno degli argomenti più caldi nelle discussioni e nelle contrapposizioni di cui leggeremo, che riguarderanno la scuola nel prossimo anno scolastico. Alla prossima, grazie.